piano. Di Enrico Ruggeri. Uno dei motivi che spingono tutti noi a scrivere storie, a raccontarle, probabilmente è cercare di capire qualcosa sul genere umano, e quindi si spazia da un argomento all'altro. E a volte abbiamo trattato storie di killer, di uccisioni misteriose, forse perché insomma anche quello insomma è un aspetto della vita e di alcune persone. Abbiamo parlato di Elizabeth Bathory, la contessa sanguinaria, di Eileen Wuornos, la donna che aveva ucciso in un solo anno 7 uomini, insomma dei killer identificati, imprigionati e puniti, dei quali abbiamo potuto tracciare un profilo psicologico e caratteriologico. Bene, oggi racconteremo invece la storia di un uomo mai identificato, un uomo di cui si sa poco o nulla e solo le vittime conoscono il suo volto. La cosa più precisa che si sa di lui è il suo soprannome, un soprannome che lui stesso si è dato. Se vogliamo parlare di male e di crimine, il suo nome d'arte è Zodiac. È il 20 dicembre del 1968. Natale è alle porte e la California, precisamente la città di Vallejo, sta per scartare un regalo che gronda sangue, un regalo che avrebbe dato vita ad alcune delle pagine più buie per i cittadini e per la polizia americana. Sono le 22:15, due giovani fidanzati, David Faraday e Betty Lou Jensen, si fermano con l'auto, una station wagon, sulla Lake Herman Road per godersi assieme il panorama mozzafiato della città di Vallejo. Sono scoccate le 23 e i due vedono una macchina che si apposta dietro di loro. Da questa macchina scende un uomo. I due giovani fidanzati vengono accecati dalla luce di una torcia. Quello sarà il loro ultimo ricordo. David viene colpito una volta alla testa dal proiettile di una pistola, Betty Lou invece viene colpita 5 volte alla schiena mentre cerca di scappare. Sono 2 gli indizi per la polizia: una Chevrolet metallizzata a 4 porte vista scappare a alta velocità da una testimone, e il tipo di pistola usata, una semiautomatica calibro 22 caricata con munizioni Winchester Super X con punta in rame. Nessuna impronta. La caccia al killer è appena iniziata. 4 luglio 1969, sono passati 7 mesi da quella notte e tutto è rimasto nell'oblio. A mezzanotte c'è una svolta decisiva, una svolta che è lontana solo 6 chilometri dal primo omicidio. Darlene Ferrin e Michael Magg sono fermi nella macchina di lei nel parcheggio del Blue Rock Springs Golf Course di Vallejo. All'improvviso vedono un'auto che è posteggiata dietro di loro. Darlene e Michael sono terrorizzati, l'auto se ne va, il peggio è passato, pensano i due ragazzi, ma non è così. L'auto torna dopo 10 minuti e si ferma nuovamente dietro. E i due non hanno neanche il tempo di reagire. Dal vetro del passeggero vedono entrare la luce di una torcia che li acceca, una luce che viene affiancata questa volta da una Luger da 9 mm. 4 proiettili colpiscono Michael, 5 Darlene. E mezzanotte 40 al dipartimento arriva una chiamata anonima. Polizia di Vallejo. Segnalare un duplice omicidio. Mi può dire il suo nome e da dove chiama? Andate 1 miglio est sulla Columbus Parkway verso il parco. Troverete i ragazzi dentro una macchina. Sono stati uccisi con una Luger calibro 9. Ho ucciso io anche quei ragazzi l'anno scorso. Ciao, ciao. La cabina telefonica dalla quale arriva la chiamata in una stazione di servizio a Springs and Toulon, 500 metri dalla casa della Ferrin e a pochi isolati di distanza dal dipartimento dello sceriffo di Vallejo. Intanto Darlene muore all'arrivo in ospedale. Michael invece, nonostante i colpi al volto, al collo e al torace, si salva. La polizia cerca subito di interrogarlo. Michael dà solo un identikit confuso del colpevole, c'è buio e poi tutto è accaduto molto in fretta. È un buio che attanaglia soprattutto la polizia, che anche questa volta non trova impronte. Il metodo è sempre lo stesso e il killer però ha iniziato un gioco drammatico con la polizia, un gioco che il 1 agosto, un mese dopo, coinvolge anche tre giornali locali, il Vallejo Times Herald, il San Francisco Chronicle e il San Francisco Examiner. I giornali ricevono tre lettere identiche. Caro editore, sono l'assassino dei due teenager dello scorso Natale a Lake Herman e della ragazza dello scorso 4 luglio. Per provarlo dimostrerò alcuni fatti che solo io e la polizia conosciamo. Natale. Primo, marca dei proiettili Super X. Secondo, 10 colpi esplosi. Terzo, il ragazzo giaceva sulla schiena, piedi rivolti verso l'auto. Quarto, la ragazza giaceva sul fianco destro, piedi rivolti a ovest. 4 luglio. Primo, la ragazza indossava pantaloni modellati. Secondo, il ragazzo è stato colpito anche al ginocchio. Terzo, la marca dei proiettili era Western. Qui c'è una parte di un codice cifrato. Altre due parti sono state spedite al San Francisco Examiner e al San Francisco Chronicle. Voglio che stampiate il codice in prima pagina venerdì 1 agosto 1969. Se non lo farete, inizierò a uccidere venerdì notte e continuerò per tutto il weekend. Andrò in giro e prenderò tutte le persone che troverò, da sole o in coppia. E andrò avanti finché non ne avrò ucciso più di una dozzina. Il falco. E il gabbiano. Le lettere contengono anche il simbolo scelto dall'assassino per firmarsi, è un cerchio con una croce sovrapposta, e i tre giornali decidono di pubblicare la parte di crittogramma che hanno in possesso. Il commissario Stills di Vallejo, che è incaricato delle indagini, non è convinto, vuole altri dettagli per capire se il killer è veramente l'uomo che sta scrivendo ai giornali, e la risposta non tarda ad arrivare. Il 4 agosto il San Francisco Examiner riceve un'altra lettera che contiene tutti i dettagli degli omicidi e anche un soprannome. Caro direttore, qui c'è Zodiac che parla. Aiutare la ricerca della polizia ci pensano i coniugi Donald e Betty Harden. I due, grazie alla passione per l'enigmistica, risolvono il crittogramma che non contiene l'identità del killer, ma un messaggio sconvolgente. Mi piace uccidere le persone perché è molto divertente. È più divertente di uccidere animali selvaggi nella foresta, perché l'uomo è l'animale più pericoloso. Uccidere qualcosa è un'esperienza eccitantissima per me. È persino meglio che venire con una ragazza. La parte migliore è che quando muoio, rinascerò in paradiso e tutti quelli che avrò ucciso diventeranno miei schiavi. Non vi rivelerò il mio nome, perché cerchereste di rallentare o fermare la mia collezione di schiavi per la mia seconda vita. Quanti film sono stati fatti seguendo questa falsa riga dell'assassino che scrive ai giornali? Nascono da una pulsione, da una storia vera, quella di Zodiac, che è riuscito a uccidere, avvertendo lui degli omicidi, a descriverli alla stampa, a firmarsi. Però nessuno sa dove cercare e chi cercare. Ha dimostrato la sua potenza, ha messo in ginocchio la polizia davanti ai cittadini. Adesso la gente ha paura, anche perché Zodiac torna in azione. Il 27 settembre del 69, un uomo vestito completamente di nero, con una collana, con un cerchio e una croce sovrapposta, con una pistola in mano, sorprende Cecilia Ann Shepard e Brian Calvin Hartner durante un picnic vicino al lago Berryessa. L'uomo in nero ordina al ragazzo di dargli le chiavi della macchina e il portafoglio alla ragazza prima di legare il suo fidanzato e dopo di distendersi a pancia sotto per farsi legare. I ragazzi pensano di farla franca, pensano che sia solo una rapina, l'uomo se ne andrà, ma non è così. 6 coltellate trapassano la schiena di Brian, poche in confronto alle 10 a cui va incontro Cecilia. Il lavoro non è finito, il killer riporta con un gessetto nero sullo sportello destro dell'auto dei giovani il suo simbolo e le tre date. Le date sono quelle dei suoi attacchi: 20 dicembre 68, 4 luglio 69, 27 settembre 1969. Vicino a questa data c'è la scritta col coltello. Sono le 19:40. È l'ennesima chiamata anonima e in arrivo. Questa volta il destinatario è il Dipartimento di Polizia di Napa. Polizia di Napa. Voglio segnalare un omicidio. No, un duplice omicidio. Loro sono a 2 miglia a nord della direzione del parco. Erano con una Volkswagen Karmann bianca. Io sono quello che li uccisi. La chiamata viene rintracciata e a 43 km dall'accaduto la cornetta è ancora alzata. Intanto gli agenti Dave Collins e Ray Land del Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Napa sono arrivati sul luogo dell'aggressione. Cecilia Shepard è ancora cosciente e riesce a fornire una descrizione dettagliata del killer. Questo purtroppo sarà l'ultimo ricordo della ragazza, che entra in coma e dopo 2 giorni muore. Brian si salva miracolosamente. Anche questa volta è il duplice omicidio, come nel caso di Michael Magg, non si è realizzato. Ma non è questa la buona notizia per la polizia. La buona notizia per la polizia è che questa volta Zodiac ha commesso un errore, ha lasciato una serie di impronte sulla cornetta. E non è tutto, è dietro la macchina dei due ragazzi sono state trovate delle impronte di una scarpa numero 43 lasciata da un uomo all'incirca di 95 kg. E c'è ancora dell'altro. Gli esperti, dopo vari esami, affermano che l'impronta non corrisponde a una suola qualsiasi. È una suola speciale di una scarpa Wingwalker, cioè le scarpe utilizzate dagli addetti alle operazioni a terra per camminare sulle ali degli aerei militari. Un prodotto che si trova negli spazi della Marina e dell'Aeronautica Militare. Insomma, il profilo di Zodiac a poco sta prendendo forma. E al momento però i sospettati sono tanti, non ci sono prove, c'è solo confusione e frustrazione, una frustrazione che aumenta, e di molto. L'11 ottobre 1969. Sono le 21.55, un taxi si è appena fermato all'altezza di Sherry Street. Dalla macchina però non scende nessuno. Passa qualche minuto, la strada viene riempita dal frastuono di uno sparo, un frastuono che fa correre tre ragazzini alla finestra della propria casa dalla parte opposta della strada. E i tre assistono a una scena tremenda. Vedono l'assassino pulire con cura le tracce lasciate, muovere il cadavere del tassista che si chiama Paul Stein, prendere qualcosa, allontanarsi a piedi in direzione nord. I ragazzi chiamano la polizia, riescono a descrivere all'operatore che prende la chiamata tutto quello che stanno vedendo, soprattutto danno un precisissimo identikit dell'assassino. Alcune volanti sono nei paraggi e arrivano in pochi secondi. L'assassino sente il suono delle sirene, accelera il passo nella speranza di non essere preso, ma gli agenti Don Fuchs e Eric Zelbs sono già di fronte a lui. L'era di Zodiac sembra volgere al termine, ma succede qualcosa di veramente inspiegabile. Ascoltate la dichiarazione rilasciata dall'agente Don Fuchs alcuni giorni dopo. Vidi un uomo bianco con indosso una giacca o un giaccone a tre quarti. Gli abiti erano color ruggine e indossava dei pantaloni con la piega. La qualcosa mi colpì, perché non erano molto alla moda all'epoca. Indossava delle scarpe di tipo tecnico. Il primo identikit del sospetto parlava di un uomo di colore alto circa 1,55 m. Vedendo un uomo bianco, tutto sommato distinto, io e il mio collega non pensammo che fosse un possibile sospetto. Quindi proseguimmo per un altro isolato. È il classico granchio preso dalla polizia. Per l'agente Fuchs questa è una delle dichiarazioni più difficili, sofferte di tutta la carriera. E sì, perché Zodiac l'ha fatta franca, ancora a piede libero. Il 14 ottobre del 69 l'ispettore Dave Toschi, assegnato al caso, entra di corsa nella redazione del San Francisco Chronicle, che ha appena ricevuto un'altra lettera terrificante. Qui parla Zodiac. Sono io che ho ucciso il tassista ieri sera all'angolo tra la Washington e Maple Street. Per dimostrarlo, ecco un pezzo della sua camicia macchiata di sangue. Sono lo stesso che ha ucciso tutte quelle persone a nord della baia. I poliziotti avrebbero potuto prendermi se avessero perlustrato bene il parco. Invece di mettersi a fare le corse con le motociclette. I bambini che vanno a scuola sono un bel bersaglio. Una mattina di queste farò fuori uno scuolabus. Tanto basta sparare ad una ruota davanti e poi abbattere i piccoli cari uno a uno, via via che scendono. La paura ha attanagliato la città. La polizia decide di istituire un servizio di sorveglianza degli scuolabus per evitare la carneficina promessa da Zodiac. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Zodiac, questo è il nome, o meglio il soprannome del killer che dalle 23:15 del 20 dicembre 68 rimbomba nella testa della polizia di San Francisco. È l'uomo che sta diffondendo il terrore nella gente di San Francisco. 7 vittime accertate, 5 uccise, 2 sopravvissute. E poi ci sono altre 37 vittime possibili. Il suo modus operandi è sempre lo stesso: sorprende coppie contro le quali spara con una pistola calibro 22 oppure con una 9 mm. In un caso ha legato le vittime e le ha coltellate. Ma quello che caratterizza Zodiac, il killer di San Francisco, è l'avere intrapreso una vera e propria sfida con la polizia. Lettere mandate ai quotidiani della città e nelle quali afferma che ha ucciso, afferma perché lo ha fatto. Una sfida fatta anche a colpi di rivelazioni per dimostrare a tutti che l'assassino è proprio lui. Una sfida che a distanza di 48 anni lui ha vinto, perché l'unica cosa certa su di lui è il suo nome di battaglia, il nome che lui stesso ha dato alla stampa. Siamo arrivati al 1969, quando la polizia affida agli esperti l'impronta parziale che l'assassino avrebbe lasciato in un taxi. Cerca di capire attraverso la scrittura se le varie lettere arrivate ai giornali sono state scritte dalla stessa persona. Arriva la prima conferma: a scrivere le lettere è stato sempre lo stesso uomo. Passano i giorni e le indagini della polizia vanno a rilento. Zodiac invece non si ferma, continua a scrivere. L'8 novembre del 69 il Chronicle riceve un biglietto. Sul fronte del biglietto c'è un disegno di una stilografica gocciolante appesa a un filo. All'interno un messaggio cifrato con 340 simboli lungo 20 righe, firmato con il solito simbolo scarabocchiato. Decifrare il messaggio sembra un'impresa. Passa un giorno, al Chronicle arriva un'altra lettera, questa volta di 7 pagine. Qui Zodiac ammette di somigliare all'identikit, afferma che sta costruendo una bomba e dice questo: non annuncerò più a nessuno gli omicidi che commetterò. Sembreranno rapine ordinarie, omicidi passionali e qualche falso incidente. PS. Due poliziotti hanno fatto una scemenza. Circa 3 minuti dopo che mi ero allontanato dal taxi, stavo scendendo dalla collina verso il parco, quando un'auto della polizia si è fermata e uno di loro mi ha chiesto se avevo visto qualcuno che si comportava in modo sospetto o strano negli ultimi 5 o 10 minuti. Ho detto di sì. C'era un uomo che stava scappando, agitando una pistola. E i poliziotti hanno dato gas e hanno girato l'angolo dove li avevo diretti. Sono sparito nel parco, ad un isolato in mezzo per non farmi vedere mai più. Ehi, maiale! Non ti dà sui nervi farti sbattere in faccia i vostri errori? L'agente Dave Toschi intuisce che il maiale è rivolto a lui, però non riesce a capire cosa gli stia sfuggendo. Intanto a lavorare sul caso ci sono altre persone, si sono aggiunti Paul Avery, giornalista del Chronicle, Robert Graysman, fumettista anche lui del Chronicle. I due decidono di indagare assieme, il primo sul campo, il secondo nelle biblioteche. Il 18 novembre del 70 Paul Avery sorprende tutti, grazie a una soffiata di un suo informatore scopre che Zodiac non ha colpito per la prima volta il 20 dicembre 68, ma 2 anni prima, il 30 ottobre 66. La vittima è Cherry Jo Bates, una studentessa di Riverside, aggredita, uccisa a pugnalate dopo essere stata prelevata con l'inganno dal parcheggio del college della città. Dopo aver sabotato la sua auto, il killer si sarebbe offerto di accompagnarla a casa e il mattino seguente viene trovata però quasi decapitata, uccisa da 3 pugnalate al torace, 1 alla schiena e 7 alla gola. E nelle vicinanze del cadavere è stata trovata anche un'impronta di scarpa militare. Gli inquirenti fino a quel momento avevano pensato che il movente dell'assassino fosse passionale, ma le lettere arrivate il 29 novembre alla polizia di Riverside e alla sede del giornale locale Riverside Press Enterprise portano Avery a pensare che l'assassino fosse Zodiac. Entrambe le lettere, chiamate la confessione, rivendicavano, come fa sempre Zodiac, l'omicidio, ne fornivano anche i dettagli. Quello che è più preoccupa però è la parte finale delle lettere, quella in cui l'autore precisa qualcosa di terrificante. Non è la prima volta che uccido e non sarà nemmeno l'ultima. Passo notti insonni a pensare a chi sarà la mia prossima vittima. E non è tutto, perché il giornalista allega a queste prove anche altre tre lettere ricevute il 30 aprile del 67 dal padre della povera ragazza, dalla polizia locale e dal Riverside Press Enterprise. Il testo è stato scritto su carta da lettere. Nelle copie inviate al Press Enterprise e alla polizia si legge: Bates doveva morire, ma ce ne saranno altre ancora, con un piccolo scarabocchio sul fondo, un simbolo che assomiglia alla lettera Z. Toschi è su tutte le furie perché Avery, il cronista, prima di avvisarlo aveva rilasciato un'intervista TV. Insomma, i cittadini adesso provano solo sdegno e sfiducia nei confronti della polizia. Siamo al caos, i mesi passano e finalmente sembra arrivare la svolta. Il 26 luglio del 71 l'ispettore Bill Armstrong, collega di Toschi, ha davanti Don Cheney, un uomo che afferma che Zodiac è Arthur Leigh Allen. Diceva che si poteva attaccare una torcia alla pistola e usarla come mirino di notte. Poi ha detto che avrebbe scritto lettere alla polizia firmandosi Zodiac per infastidirvi. Era ancora arrabbiato per aver perso il lavoro alla scuola. Parlava di sparare con un fucile alle gomme di uno scuolabus e poi abbattere i piccoli cari uno a uno. Un'altra cosa è che lì è appassionato di immersioni. So per certo che è andato a quel lago molte volte. Al lago Berriesa. Mai andato con lui? Un paio di volte. Andavamo a pescare al Puta Creek, lì vicino. Arthur Leigh Allen adesso è il sospettato numero uno. La grafia però non corrisponde a quella di Zodiac. Però Allen, come afferma il testimone, è ambidestro. A questo punto Toschi lo interroga e gli agenti notano al polso di Allen un orologio. Lui afferma essere un regalo della madre. La marca è Zodiac, il simbolo è un cerchio con una croce sovrapposta. Allen racconta che abita nel seminterrato della casa di sua madre e Zodiac in una lettera afferma che sta costruendo una bomba proprio in un seminterrato. Allen è stato arruolato in marina e questo spiegherebbe gli scarponi e la capacità di dar vita a dei codici crittografati. È stato licenziato dal suo ruolo di insegnante per aver toccato dei bambini e questo spiegherebbe la voglia di ucciderli. E gli inquirenti decidono di sentire il fratello e la cognata di Allen e arriva un altro indizio. Ecco le copie di alcune delle lettere che Zodiac ci ha spedito. Vorremmo che gli deste un'occhiata. Qui corrisponde. Che cosa? Qui, dove scrive Christmas con due S. Abbiamo ricevuto una cartolina di Natale da lui 2 anni fa. C'era lo stesso errore. C'era una doppia S. La polizia perquisisce la roulotte di Allen e all'interno trovano degli scarponi militari, delle giacche a vento. Insomma, mille coincidenze, mille piccoli indizi, ma tutto questo non è abbastanza per dar vita a un processo. Bisogna che corrispondano anche il DNA e la calligrafia. E così passano più di 4 anni. Graysmith, il fumettista, e Toschi, il poliziotto, continuano le ricerche, anche se non arrivano più lettere da Zodiac. Il fumettista rimette insieme i pezzi dal punto di vista cronologico, vuole scrivere un libro su questa vicenda incredibile. Inaspettatamente, dopo più di 4 anni di silenzio, Zodiac torna a scrivere. Il 25 aprile del 78 il destinatario è il San Francisco Chronicle. Qui parla Zodiac. Sono di nuovo tra voi. Quel vecchio maiale di Toschi è bravo, ma io sono meglio, più intelligente. Si stancherà e mi lascerà in pace. Sto aspettando un film che parli di me. Chi mi interpreterà? Adesso ho tutto sotto controllo. Tra l'altro, Graysmith scopre che Allen era, diciamo, un corteggiatore di Darlene Ferri, ve la ricordate, una delle prime vittime. Aveva scritto una lettera all'avvocato Marvin Bailey, lo stesso a cui Zodiac aveva mandato una lettera in cui gli chiedeva di aiutarlo. Però non è tutto. Zodiac, un giorno del 69, avrebbe chiamato Bailey dicendo che doveva uccidere perché era il suo compleanno. Quel giorno era il 18 dicembre, compleanno anche di Allen. Darlene lavorava solo a 50 metri dalla casa della madre di Allen, dove viveva anche Allen. Le prime lettere di Zodiac arrivano dopo l'omicidio di Darlene e continuano fino a quando Toschi incontra Allen, e poi silenzio. E Zodiac riprende a scrivere molto tempo dopo, nel 74, mandando lettere a gennaio, maggio e luglio, poi smette nuovamente, e Allen, guarda caso, viene arrestato nel 75 per molestie sessuali. Passano 4 anni e Allen esce dal carcere e Zodiac riscrive. Insomma, ci siamo. Per Toschi e Gresman non ci sono più dubbi: Zodiac è Arthur Leif Allen. È il 16 agosto del 91, sono passati più di 20 anni, finalmente vengono sottoposte le foto dei sospettati a Michael Magiu, sopravvissuto all'attacco di Zodiac del 4 luglio 69. È lui? Quanto ne è sicuro? Abbastanza sicuro. È questo l'uomo? Molto bene. Su una scala che va da 1 a 10, 10 è la massima certezza. Quanto ne è sicuro? Almeno 8. L'ultima volta che ho visto questo viso era il 4 luglio del 69. Sono più che sicuro che è l'uomo che mi ha sparato. Major riconosce Allen come il suo aggressore, come Zodiac. Sembra che finalmente il caso sia chiuso. È il 92, le autorità esaminano nuove prove contro Allen, ma prima che il procuratore distrettuale della contea decida se procedere o meno, Arthur Leif Allen muore. È il 28 agosto del 1992. Nell'ottobre del 2002 il DNA di Arthur Leif Allen è stato confrontato con quello ricavato dalle lettere e dal materiale biologico rinvenuto sui luoghi dei delitti. I risultati sono negativi. Il caso Zodiac rimane un mistero, viene riaperto nel 2007. E ciò che non è un mistero invece è la paura che Zodiac ha trasmesso in quegli anni. Ascoltate il ricordo del regista David Fincher. Se crescevi lì, in quel periodo, avevi questa paura infantile che in un certo senso autoalimentavi. E se fosse sul nostro autobus? Se si facesse vivo nel nostro quartiere? Rendi le cose ancora più drammatiche quando sei bambino. Perché questo è quello che fanno i bambini. Pensi, verrà nella nostra scuola. E David Fincher, dalla sua paura di bambino, ha dato vita al film Zodiac del 2007, un film dal quale sono state prese tutte le parti audio che abbiamo sentito nella puntata. È una storia che è piena di domande e che ha poche risposte. Ci sono storie di colpi d'ala, terribili rivolti al male. È la vicenda che ha terrorizzato una parte degli Stati Uniti per decenni, la storia di Zodiac. Noi non sapremo mai se è veramente Allen Zodiac o chi fosse, fatto sta che rimane un colpo d'ala terribile verso il basso e contro la gente. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite, scrivete al falco del gabbiano @radio24.it, visitate la nostra pagina, visitate i miei e i nostri social, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno e Massimiliano Carrà. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.